Il pastore e il leone, da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Le favole non son soltanto favole, ma quasi una moral non ristretta. Le favole non son soltanto favole, ma quasi una moral sono ristretta. Coloro che s'annoiano alla predica ascoltan di buon cuor la barzelletta. Contare per contare è cosa semplice, ma al ben mirano quei che in tutti i tempi coltivaron quest'arte antica e classica di raccontare aneddoti ed esempi. Questi in poche parole il succo stringono e diritti camminano allo scopo. Fedro parve succinto ai vecchi critici, ma ancor di più lesto è il vecchio Esopo. Che dirò di quel Babria sì laconico che strinse in quattro versi i suoi racconti? Se ciò sia bene o mal, vedano i critici, contentiamoci intanto dei confronti. Al quale intento conterò del frigio la nota favoletta del pastore e con qualche ricamo sottilissimo quella che Babria fe sul cacciatore. Ritrovando ogni momento qualche vuoto nell'armento, un pastore sospettò che vi fosse un lupo infame e un gran laccio nello strame per pigliarlo collocò. Quindi esclama: a te il più bello gran padre degli dèi e dei miei il più candido vitello sull'altare io sgozzerò se mi fai che reo quadrupede resti preso nel tranello. Non avea quest'orazione terminata che un leone grosso e forte dalla grotta ecco sbucò. Col pallore della morte il pastore perdé la bussola e il suo voto allor cangiò. Padre Giove, se un vitello poco fatto ho promesso, ti prometto adesso un bove. Voglion dir queste parole che il mortale mai non sa ciò che vuole e che non vuole. Fine della favola Il pastore e il leone. Questa registrazione è di dominio pubblico.